2024 di Enrico Pagliarini. Eccoci di nuovo insieme, questa è una nuova puntata di 2024, saluto subito Roberto Scaltritti che oggi si occupa della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci in questa puntata come del resto sempre nel nostro sabato pomeriggio al nostro numero verde 824 0024. Abbiamo accennato poco fa ad Amazon e partiamo proprio da qua, che questa settimana in particolare Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon, ha lanciato, presentato un tablet da 7 pollici, quindi piccolino rispetto al più famoso iPad, sistema operativo Android, si chiama Kindle Fire, come il fuoco. Alcuni, dicevamo poco fa, potremmo definirlo l'ennesimo tablet Android. È vero però che stiamo parlando del più grande negozio online del mondo, di uno dei più grandi distributori online di contenuti digitali che tenta di replicare con questo nuovo tablet il successo del Kindle, gli ebook dei Kindle, gli ebook reader più famosi al mondo, che sono lo strumento con cui uno acquista libri elettronici su Amazon. Un altro elemento importante, molto importante, è il prezzo, perché per la prima volta un tablet di questo tipo verrà venduto negli Stati Uniti a $199 e c'è chi ha fatto un po' i conti sostenendo che Amazon addirittura ci perde sulla vendita del Fire. La società iSupply dice che il Fire costa almeno $206 alla produzione e che il modello è un po' quello dei rasoi, non guadagno sul rasoio che ti vendo ma sulle lamette che ti vendo dopo aver venduto il rasoio. Sembra quindi, potremmo dire, che per Amazon non sia più sufficiente avere solo il classico Kindle. Ne abbiamo parlato con Carolina Milanesi, che è responsabile mondiale per le ricerche sui terminali mobili di Gartner. Sicuramente non è più sufficiente avere soltanto il Kindle, perché gli altri tablet fanno anche da lettore e reader, e quindi Amazon ha incominciato a espandere, diciamo, la famiglia dei Kindle. È interessante che comunque la Kindle brand rimane, e quindi è il Kindle Fire, non l'Amazon Fire per esempio, e quindi rimane questa evoluzione del prodotto. Questo prodotto è offerto per il momento negli Stati Uniti dal 15 di novembre a un prezzo molto aggressivo, e al di là delle caratteristiche del tablet, che sono più semplici rispetto ad altri concorrenti, molti si sono concentrati sul prezzo. Questi $199 dicono sono un'attrazione, un'attrattiva molto interessante per i consumatori, e alcuni dicono Amazon in questo modo potrebbe avere successo dove altri hanno fallito. Sicuramente c'è alla base una forte concorrenza con Apple e con iPad, giusto? Ma diciamo che è il primo effettivamente tablet che fa davvero concorrente ad Apple, perché Amazon ha capito che non è tutto sull'hardware, quindi non è il tablet da solo che fa andare il consumatore al negozio e comprarlo, ma è il tablet più i contenuti. E anche sul discorso del prezzo che facevi tu, dobbiamo ricordarci che Amazon non vende hardware. Amazon, come dicevi all'inizio, vende contenuti. Quindi per Amazon tenere il prezzo più basso e magari non fare un granché di margine sul device per se stesso, ma vendere i contenuti, è quello che interessa. Per quanto riguarda l'effetto negativo, diciamo, sull'iPad, per noi sarà sulla fascia di base, quindi il tuo 16 gig di memoria solo wifi, e per quei consumatori che pensano al contenuto prima piuttosto che magari alla brand e a tutte le specifiche del tablet. Voi pensate concretamente che possa avere successo? Ma nei mercati dove l'offerta di Amazon è forte, quindi purtroppo non il mercato italiano, visto al momento quello che c'è nel negozio Amazon a livello di contenuti digitali, specialmente contenuti digitali in lingua italiana, senz'altro il mercato americano secondo noi sarà un mercato molto positivo per Amazon, perché i contenuti sono forti, e non è soltanto ebook, ma è le applicazioni. Amazon sappiamo ha un buon store che è legato a Android, ma dove le applicazioni vengono curate e i prezzi sono anche più favorevoli. C'è tutto il discorso del cloud, e quindi poter storare le tue informazioni, la tua musica nel cloud, quindi c'è proprio tutto un insieme, un pacchettino, diciamo, molto interessante per il consumatore statunitense. Quindi diciamo che se altri produttori abbassassero il prezzo, in quel caso, non avendo tutto il resto, non sarebbe quello un ingrediente sufficiente? No, secondo noi senz'altro i prezzi dovranno essere abbassati, perché adesso c'è una ragione in più, non è soltanto competere con iPad, ma è competere con il Fire in America. Ma l'altra cosa che i venditori insieme a Google devono fare è effettivamente far sì che l'application store che hanno diventi un concorrente, come si dice, per Apple. A proposito del brand Kindle, abbiamo visto che c'è stata una espansione, quindi i Kindle aumentano di numero, di qualità, di tipologie, diciamo così, e è stata introdotta anche una modalità, potremmo dire, non so quanto innovativa, però sicuramente quando queste mosse vengono fatte da grandi nomi come Amazon, un significato ce lo hanno, insomma, importante. È stata scelta la modalità con pubblicità e senza pubblicità. È una prima assoluta? È un trend che voi vedete? Ma è una prima nel senso, ovviamente la pubblicità c'è da parecchio, ma è sempre stato un discorso di, diciamo, sovvenzione verso il contenuto e non l'hardware. Qui è la prima volta che vediamo la pubblicità che abbassa il costo del device in se stesso. È una cosa molto interessante, secondo me, che magari anche i venditori di telefonini potrebbero guardare e pensare di fare un domani, e quindi magari di, diciamo, slegarsi un attimino da quella dipendenza dal telco che dà la sovvenzione adesso come adesso, nel mercato italiano un pochino meno, ma se si guarda per esempio all'Inghilterra ci sono anche sovvenzioni di 200-300 euro e quindi apre un attimino più delle possibilità per i venditori. A proposito dell'iPad, diciamo, a parità di prezzo, se i prodotti, sui due prodotti fossero a parità di prezzo, quindi ad esempio potremmo anche pensare che in futuro ci possa essere una versione dell'iPad ridotta o comunque diversa ad un prezzo molto più concorrenziale. Voi ritenete che a parità di prezzo ancora oggi l'appeal dell'iPad e del brand Apple sia maggiore? Cioè, diciamo, se un'auto come la Ferrari costasse come un'auto normale, forse uno comprerebbe la Ferrari, non è detto, ma ecco, nel caso dei tablet? Ma secondo me sì, a parità di prezzo comunque il marchio Apple rimane ancora più forte di quello Amazon oggi. Possiamo pensare concretamente che ci possa essere in futuro una versione economica dell'iPad? Ma diciamo che adesso come adesso quello che hanno è economico, nel senso che se guardiamo a quello che fanno i concorrenti, a quanto sia difficile per loro arrivare allo stesso prezzo, si vede quanto Apple abbia veramente forzato la mano per riuscire a fare quello che hanno fatto a livello di pacchetto totale dell'hardware per avere un prezzo basso. Si è avuto così, si è parlato di un iPad superiore, il famoso iPad HD, no? Di cui si era parlato come potenza dell'ultimo momento, e non abbiamo ancora visto nulla. Se seguono la linea dell'iPod, perché no? Perché non fare qualcosa di un pochino meno 360 gradi per delle nicchie di prodotti? Per il 7 pollici però secondo me è ancora presto, perché ci ricordiamo ancora tutti che Steve Jobs aveva appunto detto che il 7 pollici non funziona. E vedremo, insomma, se avrà ragione anche in questo caso, o invece le vendite nei prossimi mesi del Fire ci suggeriranno qualche cosa di diverso. Ultimissimo punto, un flash per la prossima settimana. Prossima settimana la stampa, gli analisti internazionali sono stati convocati da Apple per parlare di iPhone. Significa, visto che ormai lo danno tutti per scontato, ma chiediamo una ulteriore conferma, che verrà presentato il nuovo iPhone? Sì, senz'altro, il 4 è appunto, diciamo, l'invito che è stato mandato è parliamo di iPhone, perché sembra che, diciamo, il punto principale dell'innovazione di questo nuovo modello iPhone sarà intorno ai comandi vocali. Quindi anche la prossima settimana ci saranno novità. Grazie a Carolina Milanesi, buon lavoro, a presto. A presto. Sono le 15:41 minuti. A proposito del Fire, mentre il Fire è, come dicevamo, un prodotto per il momento destinato al solo mercato americano, dove arriverà tra un mese e mezzo, 15 di novembre, da pochi giorni sono disponibili in Italia i tablet, i nuovi tablet della Sony. Se ne è parlato molto in primavera e estate, anch'essi sono basati sul sistema operativo Android. E vi ricordo che da oggi fino al 31 dicembre c'è una promozione che riguarda anche il gruppo 24 ore. Tutti coloro che acquisteranno Sony tablet potranno scaricare dal market Android l'applicazione del Sole 24 ore per accedere gratuitamente alle notizie, agli articoli pubblicati, e tutto ciò fino al 31 dicembre. Naturalmente gratis fino al 31 dicembre, poi uno continuerà a pagamento se lo vorrà. Sempre per quanto riguarda i tablet, Samsung ne ha annunciato uno nuovo, il Galaxy Tab 7.0 Plus o Plus, che arriverà sul mercato alla fine di ottobre e che si aggiunge al Galaxy Note, ai Galaxy Tab nei formati 8.9, 10.1, 7.7 pollici. Vi do una notizia, tra poco abbiamo la nostra rubrica Digital News con alcune delle notizie principali che abbiamo scelto da questa settimana, ma vi do una notizia a beneficio dei catastrofisti, quelli che dicono che in Italia facciamo le cose in ritardo, non facciamo nulla per quanto riguarda la tecnologia. Certo, abbiamo seri problemi a livello di paese, però prendete questo ad esempio. In questi giorni, in queste settimane, stanno accendendo le antenne della telefonia mobile nella metropolitana di New York. Per il momento il servizio è limitato a 6 stazioni e solo alle stazioni, quindi quando il treno passa da una stazione all'altra non si riesce a telefonare. Pensate che, tanto per fare un esempio, nella metropolitana di Milano il servizio è stato acceso nel corso del 2008 ed è stato esteso almeno a tutta la rete nel 2009, quindi da circa 2 anni c'è il servizio. La metropolitana di Milano è quella più grande d'Italia, ma ci sono altre metropolitane come ad esempio quella di Torino dove il servizio è disponibile, quindi non è sempre vero che siamo in ritardo. Ripeto, abbiamo seri problemi, ma alcune cose le facciamo anche in tempo. Vi ricordo il nostro numero verde se volete parlare ad esempio di tablet, perché c'è sempre molto movimento in questo mercato. Ne parleremo nella seconda parte assieme a Gianfranco Giardina, che verrà a trovarci tra poco, dopo alcuni mesi non lo sentivamo. Parleremo anche di mirrorless, un nuovo tipo di fotocamere digitale. Ci sono parecchie novità, anche Nikon è entrata nel mercato, allora faremo un po' il punto della situazione, ma sentiremo anche le vostre considerazioni sul mondo dei tablet dopo l'arrivo di questo ennesimo prodotto Android. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Riprende 2024, vi ricordo che anche questa puntata, come del resto tutte le puntate del nostro programma, sarà disponibile all'interno del servizio podcast di Radio 24. È molto semplice, cliccate sulla sezione podcast sul sito di Radio 24, quindi www.radio24.it. Se poi utilizzate un software per la gestione del podcast è tutto più semplice, perché una volta impostato potete fare il download, scaricare la puntata, il file MP3 della nostra trasmissione automaticamente settimana dopo settimana. File disponibile entro le 18:30 del sabato. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Le novità che Amazon ha presentato per tutta l'offerta Kindle riguardano prevalentemente, come abbiamo detto, il mercato americano. L'unica cosa che ci potrebbe interessare è che tra le lingue disponibili sul lettore ebook di Amazon c'è anche l'italiano, ma ancora non esiste un negozio per il nostro paese, quindi un Kindle Store su Amazon.it. C'è invece Apple, che ha aperto in questi giorni iBook Store al mercato italiano. I primi editori che pubblicano ebook, quindi libri digitali che possono essere letti solo su iPad, iPhone e iPod Touch, sono Mondadori e RCS. In lingua italiana sono disponibili circa 3.000 titoli. Digital News. Una notizia importante per il sistema paese: si è chiusa l'asta per l'assegnazione delle ex frequenze televisive agli operatori di telefonia mobile, con un incasso complessivo che, pensate, sfiora i 4 miliardi di euro. Si tratta di alcune delle frequenze liberate dal passaggio alla TV digitale terrestre che gli operatori mobili potranno utilizzare a partire dal 2013, probabilmente, anzi sicuramente per i servizi 4G. della prossima generazione. Visto che lo Stato ha incassato circa 1,5 miliardi in più del previsto, c'è chi ha chiesto che queste risorse extra vengano impiegate per il settore della tecnologia. Il ministro Romani ha detto che il 50% dei proventi aggiuntivi, quindi parliamo di 7-800 milioni, verrà destinato al settore ICT. Digital News. Pensate che si potevano liberare anche più frequenze, quindi si sarebbero potuti incassare più soldi, però il governo ha deciso che alcune delle frequenze liberate dovevano tornare alla TV. Ce n'era bisogno? Molti dicono di no, noi sosteniamo naturalmente di no. Era meglio darle alla telefonia mobile o comunque sfruttarle per internet in mobilità. Altra notizia, è disponibile il maxi aggiornamento per il sistema operativo Windows Phone 7. Si tratta dell'update 7.5, denominato anche Mango, che ottimizza il sistema operativo oggi utilizzato su terminali HTC, Acer, LG e Samsung, in attesa che fra 25 giorni Nokia presenti il proprio smartphone con sistema operativo Microsoft. Digital News. Nokia, a proposito di Nokia, è al lavoro su più piattaforme per cercare di riguadagnare quote di mercato, mentre gli smartphone di fascia alta utilizzeranno Windows Phone. Per il segmento medio-basso, un mercato enorme, parliamo di milioni di telefoni ogni anno, per questi terminali Nokia starebbe sviluppando un nuovo sistema operativo, alcuni dicono l'ennesimo sistema operativo, questo sarebbe basato su Linux e chiamato Meltemi. Digital News. Chiudiamo con una notizia che arriva dalla Cina. Gli utenti della rete internet in Cina, che è il più grande mercato per internet del mondo, hanno superato quota 500 milioni e secondo il capo dell'ufficio informazioni del Consiglio di Stato, la popolazione cinese collegata ad internet è il 40% del totale. Aumenta anche il commercio elettronico, che offre lavoro diretto a 2 milioni di cinesi e indiretto a 13 milioni. Naturalmente parliamo del più grande mercato, quello cinese, per collegamenti a internet, per numero di collegamenti, non naturalmente per valore, siamo ancora un passo indietro. Adesso parliamo di un argomento che alcuni ascoltatori nelle ultime settimane ci hanno suggerito. Parliamo di QR code, codici QR, quelli che per semplificare potremmo chiamare codici a barre più evoluti. Sono dei riquadri, li avrete visti sicuramente, che inquadrati con un lettore, che può anche essere il nostro smartphone, ci danno una serie di informazioni multimediali, testo, foto, video, suoni, eccetera, eccetera. Ne parliamo perché questa settimana Wikipedia ha rilanciato una iniziativa presentata in primavera chiamata QRpedia. Ne abbiamo parlato questa settimana con David Orban, che è un, come si dice, technology evangelist, uno che racconta molto bene, molto chiaramente cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia ed è anche recentemente diventato amministratore delegato di una società che si chiama DotSub. Wikipedia ha realizzato un sito molto semplice dove si può incollare l'indirizzo web HTTP, eccetera, eccetera, di un articolo di Wikipedia, per esempio del Duomo di Milano, e questo genera il QR code corrispondente. Cosa ci si fa? Lo si stampa, lo si appiccica, magari non direttamente sul portone del Duomo di Milano, ma su un palo vicino, su un posto adatto. E quando questo viene inquadrato, tipicamente da un cellulare, da uno smartphone, capace direttamente di decifrarlo, viene collegato automaticamente sulla pagina di Wikipedia corrispondente all'articolo nella lingua del telefono. Quindi particolarmente adatto ai turisti che possono girare per una città turistica come Milano o tante altre d'Italia e leggere dettagliatamente quello che incontrano sulla loro strada. Senti, possiamo definire i QR code dei moderni codici a barre? Molto probabilmente molti ascoltatori li avranno visti. I codici a barre sono stati inventati negli anni 50 e ci hanno messo parecchio a diffondersi. I QR code sono stati inventati più recentemente per aumentare la quantità di informazioni che è possibile immagazzinare all'interno di un'area relativamente piccola. Mentre i codici a barre hanno bisogno di un database esterno che codifichi esattamente che cosa i numeri significano all'interno del codice a barre, i QR code possono essere anche autonomi, Quindi sul mio biglietto da visita, per esempio, sul fronte c'è scritto This Site for Humans, questo lato per umani. Sul retro c'è il QR code con scritto This Site for Robots, scherzando naturalmente, e contiene esattamente tutte le informazioni del mio biglietto da visita. L'esempio del QR code di Wikipedia invece genera un indirizzo web appoggiandosi su qualcosa di esterno in modo molto flessibile. Tu ritieni che questi siano i mesi in cui queste tecnologie si stanno affermando, forse non diffondendo, perché ad esempio sui biglietti del treno che ci possiamo stampare, i QR code ci sono già da un po' di tempo? La tecnologia esiste già, ma la ragione per cui a noi sembra giustamente che li cominciamo a trovare dappertutto è perché ci sono a fianco dei codici stessi le premesse necessarie perché diventino utili ad una fascia sufficientemente ampia di popolazione, e queste premesse sono la diffusione dei telefoni con le telecamere e il software necessario ed eventualmente le reti cellulari a banda larga che permettono di vedere comodamente il sito di riferimento o di elaborare comunque l'informazione corrispondente. Noi qualche anno fa abbiamo cominciato a parlare, anche a 2024, di chip a radiofrequenza che grosso modo proponevano la stessa esperienza, cioè io inserisco un chip a radiofrequenza all'interno di un prodotto e se ho uno strumento, ad esempio un lettore di chip a radiofrequenza o addirittura uno smartphone, posso leggere le informazioni che sono contenute. Di fatto stiamo vedendo la stessa cosa ma con una tecnologia diversa, sicuramente più economica, che può fare meno cose, o diciamo possiamo paragonarle le due cose. Come spesso succede, le diverse ondate tecnologiche non sono necessariamente ed esclusivamente sequenziali, ma parzialmente si sovrappongono. Gli esperimenti di RFID, quindi chip di radiofrequenza, si proponevano di automatizzare la gestione di grandi magazzini e di poter gestire molto precisamente le giacenze. Si erano infranti su obiezioni relativamente alla gestione della privacy, soprattutto, anche se un altro aspetto era il costo aggiuntivo che l'inserimento di questo piccolo chip comportava, per esempio nei capi di vestiario o da altri prodotti. La differenza sostanziale, come la vedo io, tra le tecnologie QR code e NFC, che è una variante dell'RFID, è che la prima tecnologia è soprattutto per l'acquisizione di informazioni in modo relativamente passivo, quindi non interattivo, non transazionale, mentre la tecnologia NFC fiorirà soprattutto nel commercio elettronico, dove già adesso i produttori di carte di credito, Mastercard e Visa, i due circuiti principali, hanno carte basate su questa tecnologia. Negli Stati Uniti i lettori non sono solo della scheda magnetica o del chip, ma sono anche appunto NFC. È sufficiente avvicinare la carta di credito al lettore e la transazione avviene. La prossima generazione di telefoni cellulari, già annunciata da Google, è probabilmente, se non nell'iPhone 5, sarà nell'iPhone 6, e anche Apple farà altrettanto, contiene i chip e quindi potranno fare da borsellino elettronico. A proposito di NFC, tecnologia radiofrequenza, abbiamo alcune cose da dire anche sull'Italia. Ne riparliamo tra poco dopo GR24, il nostro numero verde 800-24-0024, a tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile alla fine del nostro programma sul servizio podcast di Radio 24, molto semplice, potete scaricare in questo modo il file MP3 della nostra trasmissione. Vi ricordo il nostro numero verde, tra poco richiameremo alcuni degli ascoltatori che ci hanno chiamato nella prima parte per parlare di tablet, delle cose che ci siamo detti poco fa sul Fire, sul Kindle Fire. Vi dicevo, il numero verde è 800 24 00 24. Se volete inviarci un SMS, 349 238 6666. Una notizia che non vi ho dato poco fa, non avevamo tempo per tutte le notizie, ce n'è una importante perché riguarda l'acquisizione di Skype da parte di Microsoft. Parliamo di una cosa che vale 8,5 miliardi di dollari. Allora, MessageNet un po' di settimane fa, ma lo si è saputo un po' di giorni fa, ma lo si è saputo giovedì o venerdì o ieri, MessageNet, che è una società italiana, ha scritto alle autorità europee di bloccare l'acquisizione di Skype da parte di Microsoft, a meno che Skype non venga rimossa dalla piattaforma Windows Office. MessageNet, che è una società che si occupa prevalentemente di telefonia VoIP ed è una società di Milano, chiede alle autorità europee di costringere Microsoft ad aprire la piattaforma di Skype, che conta oggi 124 milioni di utenti regolari, ai servizi delle società concorrenti. Giustamente MessageNet dice: è talmente vasta l'utenza di Skype che tutti i concorrenti, tutte le società che si occupano di telefonia via internet dovrebbero avere la possibilità di mettere in contatto i clienti Skype con i loro clienti. Microsoft, secondo MessageNet, dovrebbe rendere noto il codice che consentirebbe alle società concorrenti di, appunto, connettere le chiamate. Sul dossier le autorità americane hanno già dato il via libera, mentre manca quello europeo, e il commissario europeo Almunia dovrebbe decidere su questa transazione il prossimo 7 ottobre, quindi il prossimo venerdì. Vedremo se verrà presa una decisione, quindi non considerando tutti i particolari sollevati da MessageNet, oppure se verrà aperto un nuovo capitolo e quindi la decisione verrà rinviata. Molto interessante. Si è chiuso ieri a Nairobi in Kenya l'Internet Government Forum, che ha raccolto i delegati di 200 paesi del mondo per parlare sulla governance, quindi l'organizzazione di Internet. I temi di cui si è parlato sono moltissimi. Per fare il punto su alcuni di questi proporremo nella nostra versione podcast, quindi solo per chi scarica il podcast, un'intervista a Stefano Trumpi, uno degli uomini che hanno fatto la storia di Internet in Italia e tra i membri della delegazione italiana in Kenya. Visto che è importante discutere su come la rete si sta trasformando o dovrebbe trasformarsi, vi segnalo che inizia domani il Festival delle Libertà Digitali per parlare di open source e libero accesso alle informazioni via internet. Appuntamenti sono previsti a Roma, Napoli, Pisa, Bologna, Padova e Vicenza. Maggiori informazioni su www.libertadigitali.it. E a Riva del Garda si incontrano in questo fine settimana i blogger alla Blogfest 2011. Zelia Pastore ne ha parlato proprio questa mattina con l'organizzatore Gianluca Neri, che nel mondo dei blog è conosciuto come Macchia Nera. L'abbiamo fatto il primo anno a Milano, è andata avanti così fino a che la Regione Trentino non ci ha detto: venite a Riva del Garda e facciamola diventare una kermesse di 3 giorni. Perché dal vivo? Perché la gente, credo, sente l'esigenza di vedere dal vivo le persone con cui parla tutto il resto dell'anno. Diventa un po' una gita di classe. Ma lo strumento del blog, da quando sono arrivati i social network, è un po' in declino. Da pochi blogger molto attivi, infatti, la discussione è passata alla massa. Come è cambiato il lavoro di blogger dopo l'exploit di Facebook, Twitter e company? Gianluca Neri. È un po' cambiato, ma non di molto, nel senso che i blogger stessi utilizzano per primi tutti gli altri mezzi consentiti dai social network. Quindi li trovate su Facebook, su Twitter, anzi molto spesso sono quelli che scoprono prima degli altri questi mezzi. È cambiato un po' il modo, mentre prima io, per dire anche una piccola cosa, magari andavo sul blog, adesso tengo il blog per delle discussioni un po' più lunghe, articolate, e utilizzo Facebook o Twitter per dei pensieri molto veloci o estemporanei o delle battute che mi vengono. Per Mafia De Baggis, blogger e autrice di diversi libri sul mondo del web, non stiamo assistendo a un tramonto dei blog, ma ad una moltiplicazione degli spazi di espressione. Io non definirei declino quello dei blog, ma semmai un'evoluzione, un cambiamento del loro ruolo, perché sono diventati lo spazio per l'approfondimento e social network è lo spazio più della espressione, della conversazione. Quindi il lavoro, per quanto mi riguarda, non è cambiato. Ho più spazi dove poter esprimere. esprimere le cose che ho bisogno di dire. Ilaria Mazzarotta, food blogger, vede proprio una cooperazione tra blog e social network. Io trovo che i social network abbiano favorito il lavoro dei blogger, perché comunque c'è la possibilità di far conoscere molto di più il proprio blog attraverso i social network e nello stesso tempo ricevere più informazioni, discussioni, critiche, suggerimenti, parlare di quello che hai scritto. Anzi, secondo me hanno aiutato. Abbiamo fatto questa intervista al Blogfest anche perché la settimana scorsa, se ricorderete, uno dei nostri ospiti ha detto: con l'arrivo dei social network i blog sono pressoché morti. Un'affermazione sicuramente forte. Tutte le volte che facciamo un'affermazione di questo tipo, anche per farci capire, per far capire i trend, si scatenano email su Facebook, un sacco di gente che dice: ah, avete detto che è morto questo, invece non è vero. Ma certo che non è morto, un po' come quando nacque la TV e tutti dicevano che la radio stava per morire. Certo, la radio è tutt'altro che morta, però sicuramente un po' di spazio la TV se l'è preso. Saluto Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ti abbiamo fatto fare un po' di vacanze lunghe, eh? È no. Da giugno che manchi. Beh, da giugno che manco dallo studio, ma siamo stati anche giro per il mondo a fare per il cose. Mondo, le fiere, c'è stata la Fiera di Berlino, molti impegni all'estero e in Italia, quindi. Dunque, siamo noi già stanchi, se da questo. Sì, certo. Dunque, oggi noi parleremo, diciamo, l'argomento che abbiamo scelto, ma giusto per fare un update sulla tecnologia, si chiama mirrorless, cioè un nuovo tipo di fotocamere digitali. Ne parliamo perché Nikon, che è uno dei grandi nomi nel mondo delle fotocamere reflex o in generale comunque delle fotocamere, assieme a Canon ha deciso di introdurre questa tecnologia nelle proprie fotocamere, quindi questo è l'argomento. Però tra poco sentiremo anche degli ascoltatori, visto che abbiamo parlato nella prima parte, tu ci stavi ascoltando mentre arrivavi, nella prima parte di tablet, anche di tablet, non solo. Allora sentiremo alcuni ascoltatori. In ogni caso, se volete intervenire per dire la vostra su questi temi, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Non so se saremo in grado di rispondere a tutto, perché ci sono alcune domande che sono forse un po', non dico complesse, però alle quali non abbiamo gli strumenti per, certo, per rispondere, forse se ci chiedete troppe previsioni per il futuro. Abbiamo un minuto prima della viabilità. Sostanzialmente le mirrorless che cosa sono? Sono una nuova categoria di fotocamere che sono una promessa, e per questo sono molto interessanti, una promessa tecnologica. Tutti o molti ritengono che sono il futuro della fotografia, alcuni sono invece più scettici. Il mercato non ha ancora deciso, noi le raccontiamo appunto per capire, per aiutare gli utenti, gli acquirenti a capire se la mirrorless è una buona scelta. Sono fotocamere tendenzialmente compatte, cioè come dimensione abbastanza piccole, però a ottiche intercambiabili, quindi come le più grandi reflex possono avere delle ottiche differenti. Ovviamente nulla vieta di comprare un'ottica sola molto versatile e tenere sempre quella e non cambiarla. Il fatto di non avere il pentaprisma e lo specchio all'interno dà molti vantaggi in termini soprattutto di velocità di scatto e di versatilità. Poi magari li vediamo nel dettaglio, perché un minuto è già finito. Cioè, esatto. Adesso c'è la viabilità, il nostro numero verde 800 24 00 24, la nostra email 2024@radio24.it, oppure potete decidere, scegliere di andare su Facebook nella nostra pagina e magari commentare quello che stiamo dicendo proprio da Facebook. A tra poco. 2024. Dicevo che anche Nikon ha deciso di introdurre questa tecnologia nelle proprie fotocamere. È un po', non so, io non sono un grande appassionato di fotografia, però tu invece, Gianfranco, lo sì, sei, soprattutto vedi, senti gli umori degli appassionati anche su dday.it, che tu dirigi assieme alla tua redazione, insomma è costruita giorno per giorno assieme alla redazione. Per gli appassionati è un po' quasi un'offesa al mondo delle reflex, o no? Ma no, ormai ci si stanno un po' abituando tutti, ma più che altro è potrebbe la mirrorless essere anche una macchina non per appassionati, almeno noi così consideriamo proprio la collocazione ideale delle mirrorless, perché oramai, diciamo, le compatte entry level, quelle sì che non hanno più motivo di esistere, perché pari prestazioni, pari funzioni, probabilmente ce le abbiamo quasi tutte all'interno degli smartphone. Quindi fotografare con uno smartphone o con una compatta economica, le prestazioni sono quasi identiche, cioè, ma lo smartphone ce l'abbiamo già. Economica stai dicendo tipo 100 euro? Intorno ai 100 euro, certo. Sicuramente siamo molto vicini ormai come prestazioni, ma soprattutto l'utenza che non è terribilmente appassionata ha dimostrato che comunque preferisce non portarsi in giro due apparecchi, preferisce fare foto magari qualitativamente inferiori con lo smartphone che avere un apparecchio in più. Dobbiamo spostarci un po' più avanti nelle esigenze dell'utenza per arrivare verso quelle che erano magari le bridge una volta, ma adesso quello è un segmento che è quasi completamente dismesso, o addirittura le reflex, che negli ultimi anni sono diventate anche molto economiche, quindi sotto i 500 euro è facile trovare un kit reflex digitale con un obiettivo magari non eccelso, ma comunque qualcosa su cui sicuramente si possono fare foto eccellenti. Ecco, le mirrorless che cosa fanno? Danno la possibilità di avere una macchina compatta, però con delle prestazioni un pochino più alte, a partire dal sensore, che normalmente sono montati dei sensori, alcune volte anche gli stessi che sono montati sulle reflex. Gli ultimi annunci, per esempio, in tema mirrorless di Sony, vedono un 24 megapixel di sensore, quindi un sensore, lo stesso sensore che viene montato sulle migliori reflex di Sony, tanto per intenderci. Quindi prestazioni molto alte in un corpo compatto e con una facilità di utilizzo decisamente più alta rispetto alle reflex. L'altro vantaggio è proprio per la loro architettura, non hanno da alzare lo specchio, ecco perché di qui mirrorless rispetto alle reflex, e permettono delle velocità di raffica e una velocità di messa a fuoco molto più alta. Quindi per esempio la Nikon V1 appena annunciata scatta fino a 60 fotogrammi al secondo in raffica. Mamma mia, è come un video. Sì, addirittura sì. Poi si aggiungono altre funzioni interessanti che forse sono più interessanti ancora della raffica di per sé stessa, come la possibilità per esempio di scattare sì una raffica di foto, ma per conservarne una. Il sistema automaticamente Nikon, per esempio, sì, riconosce se il personaggio ha gli occhi aperti, dove le foto sono mosse, scarta le peggiori, ti propone le migliori 5 e tra quelle migliori 5 ti propone anche quella che lui sceglierebbe, ma l'utente può sempre andare a scegliere e cancellare automaticamente tutte le altre. Quindi anche io posso diventare un bravo fotografo. Beh, facciamo su 60 tentativi almeno uno. Almeno una sarà. L'altra funzione che può essere molto simpatica è quella di catturare video e foto contemporaneamente, e quindi praticamente quando io schiaccio il tasto di scatto per catturare il fotogramma, la foto singola che io voglio, in realtà mezzo secondo prima, da mezzo secondo prima fino a mezzo secondo dopo catturo anche un video, quindi ho un video correlato alla mia fotografia che mi fa vedere anche un po' la dinamica della scena e non soltanto la scena di per sé stessa, e così via. Potremmo andare avanti, soprattutto la velocità di messa a fuoco in continua, quindi la possibilità di riuscire a mettere a fuoco super velocemente e in maniera molto accurata, cosa che le compatte non possono fare in termini di accuratezza e le reflex non possono fare tradizionali, perché hanno questo specchio che ogni fotogramma deve andare su e giù e ha dei tempi meccanici che non permettono questa messa a fuoco continua. Domanda sui prossimi mesi, non so se possiamo spingerci fino ai prossimi anni, questa tecnologia sostituirà le reflex? Allora, i due grandi leader del mondo reflex, Nikon e Canon, fino all'altro ieri, diciamo così, non avevano fotocamere nel segmento reflex, mentre ce l'aveva Panasonic, ce l'ha Sony, ce l'ha Samsung. Segno che evidentemente chi ha il mercato reflex fino a ieri riteneva di non dover essere nel mercato mirrorless, perché probabilmente leggermente in conflitto. In realtà la mossa di Nikon è importante non solo per i due apparecchi nuovi che sono stati presentati, che hanno pro e contro come tutti gli apparecchi, sì, ovviamente, sì, ma perché segnano una tendenza inevitabile. Se Nikon passa alle mirrorless, o meglio affianca alle sue compatte e alle sue reflex anche le mirrorless, presto probabilmente potrebbe farlo anche Canon, e quello diventa un segmento sicuramente con un futuro. Quello che frena un po' la diffusione in questo momento è il fatto che i sistemi sono sistemi nuovi, quindi il parco ottiche evidentemente è un parco ottiche che perché cambiano deve essere innovato. Le ottiche delle mirrorless, ogni produttore ha il suo sistema, sono ottiche che sono dedicate a quella serie di mirrorless, cioè quel marchio fondamentalmente. L'unico vantaggio è che per esempio Nikon, come anche Sony, hanno inserito nella loro gamma, insieme alle mirrors, degli anelli adattatori per montare anche le ottiche, diciamo alcune ottiche delle reflex. Ho amici che hanno speso capitali in ottiche. È verissimo, è verissimo. Infatti molti dicono che la mirrorless è il perfetto secondo corpo per chi ha già una reflex, quindi che si vuole portare in giro, ma magari in occasioni particolari, una qualità tipo reflex con le sue ottiche. Però c'è da dire una cosa, un'ottica, una buona ottica da reflex è probabilmente grande tre volte una mirrorless. Quindi si ha una situazione un po' particolare, tutto un po' da definire. È il mercato che deciderà quale form factor avrà successo. Poi. Senti, hai già detto qualcosa sui prezzi, però volevo capire, queste cose costano di più o meno, oppure che dinamiche di prezzi ci sono? Questo è l'altro punto debole delle mirrorless, nel senso che noi in Italia siamo proprio specializzati nel segmentare i prodotti per prezzi e quindi dire questo è più bello perché costa di più, questo è più brutto perché costa meno. Se facessimo ignoranti da questo punto di vista. Sì, però è così. Se facessimo così con le fotocamere oggi troveremmo dei piccoli paradossi, perché ci troveremmo con delle mirrorless che costano più di alcune reflex. E allora qualcuno potrebbe dire, ma come? Ma la reflex poi fa delle foto migliori? Sì, ma attenzione, è una macchina completamente diversa, che richiede anche una borsa diversa, un corredo diverso, una fatica di trasporto e una facilità di utilizzo diverse. In realtà il problema in questo momento è proprio quello, cioè il prezzo delle mirrorless è tra 400, 500, 600, arrivano anche a 800 euro, sempre con almeno un'ottica, ben inteso, e quindi sono in ricopertura con alcune reflex, alcune anche abbastanza sofisticate. Quindi qui la scelta non è più una scelta di prezzo, non c'è più una segmentazione per prezzo, cioè uno dovrebbe scegliere la macchina sulla base della sua attitudine a fotografare, cosa che sarebbe assolutamente corretta, prima cosa, dopodiché vedere all'interno della macchina giusta per ogni utente quella che uno può permettersi, allora a quel punto vede quale comprare. Ecco, questo però sta creando un po' di confusione, perché uno dice, ma allora a quel punto mi compro una reflex. Io credo che la tendenza sarà quella, però questa nel medio termine, quindi non aspettiamocelo per questo Natale, di vedere via via sparire i marchi anche importanti dal segmento delle compatte economiche, che oramai sono un mercato troppo battagliato, e le mirrorless posizionarsi a un prezzo leggermente più basso. Poi devo dire la verità, provandole, perché le stiamo ovviamente provando in questi mesi, ti accorgi che non c'è nessuna compatta, quasi nessuna compatta riesce a fare delle foto della stessa qualità che si riesce a fare con le mirrorless, proprio per qualità del sensore, per qualità degli altri, anche della logica, dei processori che vengono messi dentro. Sì. Quindi diciamo che è veramente un passo avanti per chi viene dalla fotocamera compatta e un modo diverso di fotografare, molto più comodo per certi versi per chi viene dal mondo delle reflex. Senti, visto che siamo alla radio e io sono attento nella vita di tutti i giorni ai suoni, fanno il clack classico della macchina? Cosa si sente quando scatti la fotografia? Non fanno un clack molto meccanico, no? Però fanno sicuramente un rumore che non è simulato. Però un otturatore che si apre. Sì, però non è un clack meccanico come quello di una reflex, perché ovviamente le parti in movimento sono molte meno, ma questo è proprio il vantaggio di quell'architettura. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che anche dovrebbe rompersi meno il sistema. Il sistema è sicuramente meno delicato, c'è solo un piccolo difetto se si cambiano molto le ottiche, perché il sensore non è più, come dire, protetto. Ah, è proprio certo, appena io apro l'ottica, sì, vedo il sensore, cosa che non accade sulle reflex. Oggi devo alzare lo specchio, quindi potrei per toccarlo, vederlo. Diciamo che se uno è un po' disaccorto o cambia le ottiche in un ambiente non pulito, insomma, potrebbe depositarsi della polvere, poi magari potrebbe avere la tentazione di pulirsela da sé, che non sempre è una buona idea. Insomma, ecco, questo è l'unico vulnus. Per il resto sicuramente ha meno parti meccaniche in movimento, sì, e quindi meno vulnerabile. Dunque, abbiamo un minuto prima della pubblicità, poi sentiremo anche alcuni ascoltatori. Solo una considerazione sul mercato. Alcuni produttori hanno introdotto nella propria gamma queste macchine da un po' di tempo. Cosa dice il mercato? Cioè, stanno avendo successo o faticano ad affermarsi? Allora, i modelli proposti fino ad oggi hanno faticato, i primi hanno faticato sicuramente molto, era una proposta nuova, non si capiva se poi era un'iniziativa di quel produttore che veniva in qualche modo seguita in termini di architettura oppure no. Devo dire anche che il nome Mirrorless non è un bel nome, cioè. Non è molto bello, sì. E non è neanche stato coniato da molto. Esistevano delle macchine che di fatto erano mirrorless, diciamo così, senza chiamarsi ancora così. E quindi non c'era una riconoscibilità del segmento. Sembrava una fotocamera come un'altra, però a un prezzo più alto. E quindi adesso l'utenza incomincia a conoscerla. Adesso si vede. Devo dire che la presenza di Nikon sul mercato con delle fotocamere mirrorless è una sorta di garanzia anche per tutti gli altri marchi, cioè il segmento esiste adesso, esiste. Sicuramente Panasonic ci ha creduto sin da subito, Samsung l'ha seguita, Sony è stato un nome molto importante che è arrivato però solo lo scorso anno, e quindi con questi modelli Nex. Adesso incomincia a esserci un'offerta per cui non bisogna, prima mirrorless era quasi andare su un marchio solo due, adesso si possono scegliere già tra 4-5 marchi, e quindi la cosa incomincia a diventare... Sì, sì, esiste il segmento di mercato. Più consistente. Del resto tu accennavi alla scelta, all'annuncio fatto da Nikon, non ne avremmo parlato se non ci fosse stato questo annuncio, perché effettivamente, oltre che essere una notizia in sé, è anche appunto un segnale importante. Numero verde 800 24 0024, ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, sono le 16.30, più tardi ci sarà disponibile sul nostro sito internet la versione podcast. Con noi Gianfranco Giardina, che dirige il magazine digitale dday.it. Gianfranco, ogni volta che io ospito qualcuno che fa un'affermazione, più che un'affermazione, che cita un termine inglese magari italianizzandolo, si scatenano un sacco di persone che ci criticano, eccetera. Allora vorrei spiegare che, a parte che questo succede anche a quelli che parlano tutti i giorni in italiano, ma molti dei nostri ospiti normalmente nella loro vita professionale e anche nella loro vita quotidiana familiare parlano in altre lingue, spesso naturalmente in inglese, alcuni abitando in Italia ma parlando con le loro aziende magari internazionali, e quindi diciamo li ringraziamo perché sono in grado di parlare in un buon italiano normalmente anche in quei 10 minuti, 15 minuti in cui li intervistiamo. Quindi se qualche volta scappa un termine inglese non mi fascerei la testa. Capita tutti, anche noi quando andiamo alle conferenze stampa ne sentiamo di tutti i colori. Sì, sì, beh, diciamo che non è... Anzi, è un'usanza, è un'usanza oramai purtroppo non bellissima del mercato, perché nelle riunioni interne alle aziende oramai il lessico è questo, e quando poi si magari finisce in radio capita di avere qualche termine così. Io devo dire che finché uno mi usa il termine inglese non mi dispiace, sono gli ibridi forse che mi danno più fastidio. Per esempio è molto più in uso il termine per definire la connessione video digitale, no? HDMI, ah, sì, no? Invece che l'italiano HDMI o l'inglese HDMI. Allora sì, io dico scegliamone una, dopodiché esatto, quando l'abbiamo scelto almeno è corretto, ma HDMI non è niente. Esatto. Sentiamo Osvaldo che ci telefona da Lucca. Buongiorno, buon pomeriggio Osvaldo. Buongiorno a tutti e grazie. Io chiamavo per fare una considerazione in merito a quello che è la sua presentazione di quel prodotto venduto su Amazon a un prezzo di $199. Sì, il nuovo Kindle Fire, che è il nuovo tablet di Amazon, proprio marchiato. Ok, io non conosco le caratteristiche tecniche di questo prodotto, però volevo dire che ci sono molti tablet, soprattutto sul formato 7 pollici, che vengono venduti a meno di €100, parlo anche di €60, sì, sì, con sì, processori di tutto rispetto, si parla già di un 800 MHz o di un giga, per cui non vedo questa grande convenienza, però è un'osservazione del tutto personale. Ma è un'osservazione che merita di essere ascoltata. Cito un dato che ho citato anche all'inizio della trasmissione, ma che viene riportato da alcuni siti americani, che in base alle caratteristiche di questo prodotto, che noi non abbiamo ancora visto, ma non ha visto nessuno, nel senso che il prodotto uscirà sul mercato il 15 di novembre, secondo iSupply, che è una società di tutto rispetto americana che fa una operazione molto semplice, smonta i prodotti pezzo per pezzo e conoscendo il mercato, conoscendo i produttori principalmente asiatici di questi pezzetti, fa il calcolo di quanto costa a prezzo di fabbrica il prodotto, e in questo caso iSupply dice secondo noi costa 209,63 dollari alla produzione. Quindi Amazon, secondo iSupply, perderebbe circa 7 dollari, un po' più di 7 dollari per ogni prodotto venduto. Questo naturalmente in base alle caratteristiche di questo prodotto. Poi ci sono tablet molto scadenti che costano naturalmente meno. Alcuni addirittura dicono che costerebbe 50 euro di più rispetto a quello che viene proposto da Amazon. Gianfranco. Ma quando si dice che un tablet ha un prezzo basso, normalmente ci si confronta con chi fa il mercato dei tablet. In questo momento il tablet nettamente più venduto in Italia, oltre 1,5 milioni di pezzi, eccetera, eccetera, si chiama iPad e costa molto di più, arriva fino a costare 700 euro. Quindi è chiaro che il benchmark col quale ci si confronta è quello di un tablet molto più caro. Poi bisognerà vedere anche le funzioni di questo tablet. Potrebbe essere che 200 dollari siano assolutamente troppi per le prestazioni. Ecco, vogliamo prima vederlo, poi potremo decidere che è veramente un prezzo conveniente. Dunque, Roberto chiama dalla provincia di Padova. Buongiorno. Salve Pagliarini, complimenti per la trasmissione che per me ormai è un punto fisso. Stavo per comprare Playbook di BlackBerry quando ho sentito delle notizie non troppo belle e mi sono fermato. Siccome sono appassionato anche di BlackBerry, di smartphone, eccetera, volevo sapere qualcosa in più se lo sai. Sì. Grazie Roberto. Dunque, allora, parliamo di Playbook, nel particolare poi di BlackBerry, di RIM in modo particolare, che è il produttore di BlackBerry più in generale. Allora, poi sentiamo anche Gianfranco Giardina. Io tra l'altro ho provato anche Playbook, che è un ottimo prodotto fatto molto bene su un sistema operativo molto solido, molto stabile. Del resto BlackBerry ci ha offerto e ci sta sempre offrendo prodotti con sistemi operativi proprietari molto stabili, molto buoni. Uno dei problemi più grandi di questo prodotto è l'assenza di un ecosistema paragonabile ad Android o iOS Apple, cioè mancano molte applicazioni, ma io sul prodotto non ho nulla da dire, nel senso che mi pare un ottimo prodotto. Sicuramente BlackBerry, RIM in generale, sta soffrendo sul mercato perché c'è una concorrenza molto forte di tutto quel segmento, soprattutto negli Stati Uniti, denominato consumer, cioè iPhone, tutti i prodotti Android, mentre BlackBerry ancora oggi viene visto come un prodotto business. Io sono un amante del BlackBerry, noi tra l'altro al Sole 24 Ore abbiamo BlackBerry, sono macchine affidabili, sistemi operativi affidabili, con una piattaforma email fantastica, quindi non posso che parlare bene di questo prodotto. Sicuramente la concorrenza consumer, quel fenomeno conosciuto come consumerizzazione, qua critiche a Google, consumerization, cioè dell'esigenza di molti di utilizzare magari l'iPhone che normalmente utilizzano nel tempo libero anche in azienda, per tutto quello che si fa in azienda, è un problema per RIM, che sta soffrendo per quote di mercato, però l'azienda è sana, solida, insomma. Sì, l'unico motivo di preoccupazione attorno a RIM, sicuramente gli analisti l'hanno identificato, noi anche, nel fatto che RIM sarebbe in procinto di lanciare alcuni smartphone su piattaforma QNX, quindi sulla stessa del Playbook, sì. Che però è una piattaforma che non sarebbe compatibile con i protocolli di posta BES e BIS che hanno fatto la fortuna di BlackBerry fino ad oggi, cioè sarebbero dei BlackBerry non BlackBerry questi telefoni, e quindi qui dice: ma come, BlackBerry o gioca dove sa giocare bene, sì. O se no, se va su un campo dove non è forte potrebbe avere dei problemi. Ma voglio dire, di qui a pensare che l'azienda possa avere problemi di stabilità nel breve, direi che ce n'è. Poi su QNX, cioè con questo nuovo sistema operativo, insomma, non tutto è deciso, anzi, certo, tutt'altro che deciso. Dunque, Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io vorrei comprarmi una macchina fotografica perché avevo la classica macchinetta tascabile, però giustamente, come ha detto il vostro ospite, ormai queste foto si possono fare perfettamente con il cellulare. E avevo puntato su queste macchine tipo Bridge, però ho sentito un commento che insomma mi ha spaventato un po', nel senso che sembra che non verranno più fabbricate oppure che siamo fuori con questo tipo di macchine fotografiche. E allora vorrei sapere un po' di più al riguardo. Sì. Gianfranco. Allora, ovviamente io parlo per quella che è la mia sensibilità e il mio giudizio. Le Bridge, al di là del fatto che effettivamente se ne vedono meno e nessuno sta più puntando su questo segmento, ma sono schiacciate da una parte dalle reflex, occupano uno spazio simile a quello delle reflex, e verso il basso sono invece schiacciate dalle mirrorless, che avanzano con qualità e prestazioni eccellenti, ovviamente con anche un po' di versatilità in più. Quindi queste Bridge, diciamo, funzionano benissimo. Se uno compra una Bridge fa delle foto eccellenti, se la macchina è buona, ovviamente. Il punto è che se la traguardiamo nello sviluppo del mercato, delle quote di mercato tra diversi formati, non ci sarà un grande futuro per le Bridge. Questo vuol dire anche che però chi compra una Bridge oggi continuerà a far foto per tutto il tempo in cui la possiede. Non è che il fatto che poi non escano più Bridge quella macchina non funzionerà. Sì, anche perché qua non è che c'è un sistema operativo che no, bisogna aggiornare. Assolutamente, eccetera, eccetera. Una macchina si compra e si tiene finché non si guasta. Certo, se uno pensa di comprare una macchina e poi metterla sul mercato l'anno dopo come usato, perché la cambia frequentemente, e uno pensa quindi di avere una macchina che abbia un mercato sull'usato, forse non andrei su una Bridge. Però queste sono considerazioni che nascono in fisico. Il consiglio è quello di andare in un negozio, magari fisico, perché solo in quelli si può fare una prova di questo tipo, e provare una mirrorless. Un consiglio che diamo sempre, ma che in pochissimi fanno: portatevi un SD card in negozio, tanto non costano più niente, ma ce l'avete già in casa, e scattate delle foto anche in negozio, anche con luce del negozio. Non sarà una bella luce, meglio, le belle macchine si vedono proprio in condizioni difficili. Portatele a casa e confrontatele. In questo modo saprete molto meglio di qualsiasi recensione o molto meglio di qualsiasi dépliant se la macchina fotografica è quella che dà delle prestazioni nettamente differenti dalla macchina magari che avete già in casa, oppure no. Dunque, sentiamo Michael o Michelle, non so, dalla provincia di Rimini. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori della radio. Stavo seguendo appunto. Come si pronuncia il nome? Si pronuncia Michael. Michael. Michael. Perfetto, grazie. Volevo chiedere, stavo appunto seguendo il discorso che si trattava sulle macchine fotografiche. Da inesperto quale sono? Possiedo una semplice compatta da qualche anno. Volevo però comunque passare a un qualcosina di un attimino più importante. Può essere considerato un passaggio intermedio, mirrorless tra compatta e reflex, oppure sono due tecnologie comunque che non, o come dire, che possono viaggiare in sintonia più o meno alla pari, diciamo. Grazie Michael, grazie e buon pomeriggio. Allora, una fotografia è fatta sicuramente dal sensore e dall'ottica in prima istanza. È chiaro che sia le reflex che le mirrorless sono fotocamere a ottiche intercambiabili, quindi molto dipende dall'ottica che monto. Si può dire però tranquillamente che alcune mirrorless fanno foto mediamente migliori di magari delle reflex entry level. Ecco, quindi c'è sicuramente una sequenzialità. Se io prendo una reflex professionale o semi professionale, fa delle foto sicuramente migliori delle mirrorless, però magari non ne ha alcune funzionalità, tipo la raffica, la messa a fuoco molto veloce, serve per fare la foto super tradizionale. Già se devo inseguire, per esempio, per la foto sportiva, sempre che non siano soggetti troppo lontani, quindi sportiva nel senso che ci sono soggetti in movimento veloce, soggetti in movimento veloce, oppure automobili, cavalli. Sì, sì, automobili, cavalli, ma per esempio un amico che deve fotografare i tuffi, no? E quindi, paracadutisti, quindi che sono attività sportive che si svolgono in brevissime frazioni di secondo, e chiaramente il movimento deve essere catturato. Ci vogliono sicuramente delle ottiche più luminose. Fotografare con una compatta verrebbe fuori una foto sicuramente mossa, ma anche fotocamere che sanno mettere a fuoco molto velocemente, molto bene, perché sennò il soggetto viene assolutamente sfocato. La possibilità, per esempio, di scattare, come dicevo prima, una raffica velocissima di foto e poi scegliere quale tenere delle migliori è un modo. Forse i fotografi puristi strocciano il naso perché il bravo fotografo sa quando deve scattare, ma il risultato, che poi è quello che conta, è un risultato buono. Io penso che le mirrorless siano, per chi viene dalle compatte, un grandissimo passo avanti che si elimina anche qualche complicazione in più delle reflex. Dunque, io sono convinto, quindi mi piacciono molto, senza averle provate, ho visto qualche foto, ho letto qualche cosa su dday.it, che visto che voi provate molto spesso, cioè spesso, sempre, tutti i giorni. Beh, ci sono anche le foto test sul sito, quindi chi vuole andare a vederle poi trova durante... Dunque, sono le 16:44 minuti, adesso ci sono le informazioni per chi si sposta su strade e autostrade. Vi ricordo il nostro numero verde per l'ultima parte di 2024, 824 0024. Tra poco sentiremo Lorenzo. 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicarci qualsiasi cosa durante la settimana, è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Vi ricordo anche che abbiamo una pagina su Facebook sulla quale potete fare I like, naturalmente se vi piace 2024, altrimenti insomma scegliete altre strade, altri lidi. Saluto Lorenzo che ci chiama da Trento. Buon pomeriggio Lorenzo. Buon pomeriggio dottor Paglierini. Le chiedo una cortesia, forse sono fuori tema, ma parlando del sistema Android, ho sentito dire che è un sistema aperto, craccabile, come dire, pericoloso rispetto a Symbian o alla Apple, è vero? Guardi, quando parliamo di craccabile, tutto è craccabile e quindi diciamo di sicuro al mondo c'è poco, come diciamo spesso con i nostri esperti di sicurezza informatica, la sicurezza assoluta non esiste. Sicuramente Android, essendo un sistema aperto, ha diciamo delle vie di accesso più facilitate, quindi è più facilmente attaccabile e craccabile. Lo è meno Apple, o meglio, lo è meno iOS, in modo particolare, visto che stiamo parlando di sistemi operativi per smartphone, però lo è abbiamo visto, abbiamo visto dall'esperienza che è assolutamente attaccabile, così come lo è il sistema operativo utilizzato sui Mac, quindi è tutta una questione di convenienza. Se domani mattina io e Enrico inventiamo un nuovo sistema operativo per uno smartphone, lo chiamiamo Giardina Pagliarini, e lanciamo questo smartphone, vendiamo a qualche parente, no? 3-4 esemplari, nessuno lo craccherà, anche se è facilissimo da craccare, perché non c'è interesse a farlo, cioè non c'è un parco installato. Quindi è chiaro che se io vado su sistemi meno diffusi, come era una volta il Macintosh, per esempio, era una volta, no? E quindi ci saranno meno virus, meno backdoor, attacchi in generale. In realtà poi tutto è craccabile, basta che ne valga la pena per chi lo fa. E quindi una volta che il parco installato incomincia a diventare importante, abbiamo visto iPhone, il famoso, la diffusa pratica del jailbreak, così si chiama, che rende iPhone un telefono aperto, è applicata in molti, molti casi. Quindi abbiamo visto, sembrava un sistema chiusissimo e invece continua a essere aperto. Questo poi non vuol dire che questi sistemi non siano sicuri, sono normalmente sicuri. Poi certo, come abbiamo detto, tutto è craccabile, ma diciamo anche spesso a 2024 è necessario proteggersi. Ma del resto molti di noi, io immagino tutti, quando alla sera vanno in casa chiudono a chiave la porta. Quello che succede nella vita reale va tenuto in considerazione anche nella vita virtuale. Sono le 16:48, c'è Gianni che ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno a lei e ai suoi ospiti radioascoltatori. Senta, io sono un utente Apple e sarei intenzionato ad acquistare un iPad. Quello che mi blocca per il momento è il fatto che comunque rimane un sistema chiuso, per cui io volevo sapere se c'era un'ipotesi, se si parla di la possibilità da parte della Apple di produrre un iPad con una porta USB in modo da collegarlo poi alle periferiche che comunque uno utilizza nel proprio circuito, a casa, in ufficio, in altri luoghi. Domanda chiarissima, domanda ricorrente su internet, anche a Radio 24. Adesso, prevedere quello che farà la Apple è una delle cose più difficili in assoluto. Gianfranco, possiamo dire tranquillamente, molto difficilmente ci sarà un iPad con porto USB, o comunque questo concetto di chiusura, che è anche uno dei vantaggi, uno dei punti a favore di Apple, difficilmente verrà rivisto. Apple, uno dei capisaldi di Apple è quello di garantirsi la user experience, cioè avere certezza che l'esperienza dell'utente vada su determinati binari, che ovviamente sono di piacevolezza, stabilità, eccetera, eccetera. Per fare questo deve porre dei limiti. Sappiamo benissimo, nell'esperienza che abbiamo avuto tutti, per esempio con un computer, macchine molto più flessibili, più aperte, che alcune volte, soprattutto se l'utente non è espertissimo, rischia di fare delle misconfigurazioni, di mettersi in situazioni di instabilità, il computer non funziona più, bisogna formattarlo, eccetera, eccetera. Per fare questo ovviamente bisogna inserire dei blocchi. Attenzione però alla porta USB, perché tecnicamente iPad ha la porta USB, ovvero si collega al computer tramite una porta USB, ovviamente c'è un cavetto adattatore, ma sì. Si collega via USB, quindi non basta avere una porta USB per essere così aperti. Il concetto è avere una porta USB host, così chiamata, cioè quella dove io posso collegare altre unità di memoria, quindi posso collegare una chiavetta USB, posso collegare un hard disk esterno e accedere a questi archivi. Anche questo non è stato fatto, però ricordo per esempio che iPad ha degli adattatori Apple ufficiali per il mondo della fotografia, ne stiamo parlando anche oggi di fotografia, quindi parliamone, che permettono di collegare via USB direttamente una fotocamera. Quindi posso collegare la fotocamera all'iPad e scaricare direttamente dalla fotocamera via cavetto USB tradizionale le foto, oppure addirittura da una SD card, quindi un adattatore per l'SD card. Attenzione, posso caricare soltanto le foto, cioè Apple ha capito che c'è questa esigenza, però dice ti limito questo gioco alle sole foto perché non voglio che tu introduca altri file che potrebbero creare poi configurazioni sbagliate oppure anche diciamo dei vincoli, cioè dei limiti alla struttura di protezione di copyright di Apple stessa. Quindi in certo senso io potremmo dire che Apple ha che iPad ha una presa USB limitata ad alcune funzioni, quindi al collegamento con il PC per l'utilizzo con iTunes e al collegamento con le fotocamere e con le schede di memoria delle fotocamere stesse. Sì. Cito un SMS, anche se io preferisco sempre sentire le persone che parlano, essendo noi alla radio, più che leggere SMS, però mi sembra interessante Ale da Senigallia, che avrà un piano tarifario molto agevole per gli SMS, visto che ce ne spara moltissimi, e che comunque salutiamo perché è un nostro ascoltatore fedele, e dice più che di USB forse sarebbe meglio parlare di Thunderbolt, ma lo cito questo SMS proprio per parlare di Thunderbolt, giusto per mettere la parola nell'etere, perché è una tecnologia che è stata introdotta da Intel e che Apple ha utilizzato per prima già su alcuni prodotti, su alcuni portatili, su alcuni computer, e sicuramente, probabilmente, poi vedremo, potrebbe essere invece questo un passo successivo, invece che un iPad con l'USB, un iPad con il Thunderbolt. Una possibilità, insomma. Perché visto no, che quando Thunderbolt sarà più diffuso. Di oggi. Bene, noi abbiamo terminato la puntata di oggi, tra poco daremo la linea a GR24, ricordo che la prossima settimana verrà presentato, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, lo ricordiamo perché sicuramente una parte iniziale della trasmissione del prossimo sabato sarà dedicata all'iPhone 5 che verrà presentato, lanciato la sera qua in Italia, la mattina nella costa del Pacifico degli Stati Uniti. Verrà presentato il 4, che è martedì. Sì, iPhone 5 verrà presentato il 4. Sì, esatto, potevano farlo anche il 5. A quel punto. Sì, esatto. Dunque, una cosa che ci stiamo domandando, ho fatto un po' di telefonate in giro per il mondo, perché pare che, contrariamente a quello che è avvenuto per gli ultimi eventi, non venga trasmesso l'evento. Ricordiamo che questo è un evento che dovrebbe, non è certo nulla, essere presentato da Cook, che è il nuovo amministratore delegato. Chissà, forse ha paura di farsi vedere in tutto il mondo con uno streaming live, quindi si tiene l'evento privato. Beh, privato, insomma, Tim Cook ha una grande esperienza, però non c'è dubbio che il prendere l'eredità di Steve Jobs si sentirà come uno scolaretto al primo giorno di scuola, ecco, insomma, esatto, quindi esatto, si sente sotto esame di sicuro. Bene, grazie a Roberto Scaltriti che si è occupato della parte tecnica, grazie anche ad Alessandro Balia in redazione, grazie a Gianfranco Giardina che è direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, grazie, buon divertimento in questo weekend con delle prove di mirrorless, immagino. Sì, anche con un po' di riposo. Anche con un po' di riposo. E adesso, prima di concludere questa puntata di 2024, come vi avevo promesso e solo per i nostri utenti podcast, una intervista che abbiamo realizzato con Stefano Trumpi, che per tanti anni ha diretto il Nick Italiano, quindi il registro dei domini.it, è sicuramente una delle persone che hanno contribuito alla storia di internet in Italia ed è stato questa settimana uno dei membri della delegazione italiana a Nairobi in Kenya, dove si è tenuto l'Internet Government Forum, che è un appuntamento in seno alle Nazioni Unite per discutere e dibattere del futuro della rete internet, della governance di internet e dell'organizzazione di internet. Naturalmente i temi sono stati tantissimi, anche molto particolari da addetti ai lavori. Pensate che c'erano delegazioni da circa 200 paesi in tutto il mondo, quindi tantissimi meeting, workshop e tantissimi faccia a faccia. Abbiamo cercato di riassumere i temi in questa intervista. Le discussioni sono avvenute su molti temi tipici dell'IGF che riguardano proprio la governance e la rete internet, sia per gli aspetti più di gestione del sistema degli indirizzi della rete, sia dei problemi della privacy, dei problemi dei diritti in rete, eccetera. Quest'anno devo dire che c'è stata una particolare accensione sul modello stesso dell'OIGF, in quanto anche è in atto una discussione presso le Nazioni Unite su quello che dovrà essere il miglioramento di questi mitichi, che ormai dureranno fino al 2015. E in questi casi molto è anche venuto fuori nella discussione che riguarda il ruolo dei governi appunto nella internet governance. C'è stata una proposta di alcuni stati, India, Brasile, forse tra i primi anche per dimensioni, per importanza che stanno assumendo questi stati, che lei sostiene possa essere vista come un rafforzamento del controllo della rete internet, forse addirittura preoccupante? Senza dubbio. Gli stati in questione, oltre a Brasile, India e il Sudafrica, i quali hanno presentato un documento ancora in bozza per una discussione, nel quale prevedono la possibilità che venga costituito un forum dentro le Nazioni Unite per il monitoraggio e il controllo, diciamo, delle attività svolte da ICANN, svolte anche da chi si occupa di standard nella rete, e questo qui è stato giudicato dai paesi occidentali e paesi più evoluti come un tentativo certamente di riportare dentro le Nazioni Unite in pratica il controllo della rete. I commenti sono stati molto critici e i proponenti hanno detto che sono disponibili a discutere, eventualmente rivedere questa proposta, ma il commento prevalente, anche condiviso da me e da molti altri, è stato quello che per l'internet questa è una scelta certamente molto pericolosa. Sì, perché ricordiamo che oggi di fatto buona parte della rete internet non ha un controllo centralizzato, diciamo che il controllo dipende da stato a stato, giusto? Esatto. E in particolare però l'attenzione di questi signori è sul comportamento di ICANN, che adesso, dopo un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, non è più controllato dal governo degli Stati Uniti, ma è responsabile di fronte alla comunità internet a partire dalla fine del 2009. Sì. Quindi le domande che abbiamo fatto a questi signori sono state: diteci che cos'è che non funziona e com'è che con la vostra ipotesi le cose funzioneranno meglio. E chiaramente non sono stati capaci di rispondere a questa domanda. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it e vi ricordo anche la nostra pagina Facebook. Andate su Facebook, cercate 2024, scritto per esteso, e fate i like sulla nostra pagina e partecipate anche alle discussioni della settimana. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24, oppure via podcast, come state facendo in questo momento, con il file MP3 che trovate sul nostro sito internet. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.